Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Glutine, cereal killer? Per alcuni si direbbe proprio di sì. Intanto buongiorno da Nicoletta. Oggi cerchiamo di capire che cos'è il glutine, che cosa serve e perché per alcuni di noi la sua presenza nella dieta è intollerabile. Iniziamo a capire di che cosa stiamo parlando. In linea con noi abbiamo il professor Norberto Pogna, dirigente di ricerca del CRA, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Professore, la popolarità del glutine è cresciuta da quando nei supermercati si vedono prodotti senza glutine. Quindi noi possiamo capire che è qualcosa che c'è ma che si può togliere, perché per alcuni diventa pericoloso. Ma di questo parleremo dopo. Restiamo al nostro cereal killer, definizione che ho preso da un suo libro. Che cos'è? Ci aiuti un po' a farci un'idea di lui? Sì, il glutine si sforma quando una farina di grano o di grano tenero, di grano duro, viene impastata aggiungendo acqua. In queste condizioni, cioè con acqua e l'energia meccanica, si sviluppa una massa elastica che è nota come glutine. È costituita da proteine che sono presenti nelle farine, che tra di loro si legano e formano questa massa elastica che costituisce poi la struttura tridimensionale che troviamo nella mollica, che è presente nella mollica. Nella mollica noi possiamo trovare, vedere, osservare delle piccole cellette che si chiamano alveoli. Sì. Ecco, questa struttura proteica, il glutine, costituisce l'ossatura, lo scheletro di questi alveoli. Gli alveoli si formano quando, durante la lievitazione dell'impasto, si sviluppa del gas. Il gas fa rigonfiare l'impasto, forma queste cellette che diventano ancora più grandi quando l'impasto viene messo a cuocere alle temperature di cottura del pane, 250 gradi circa. Ecco, in questo caso il gas si espande, fa rigonfiare l'impasto e si forma il pane, che ha un volume che può anche essere due volte e mezzo quello dell'impasto di partenza. Ecco, senza il glutine tutta questa struttura, tutta questa impalcatura non è possibile che si formi. Quindi se vogliamo un pane lievitato abbiamo bisogno di glutine. E il glutine si trova nel frumento, non si trova invece in altri cereali imparentati col frumento, ad esempio l'orzo, ad esempio il mais ed altri. Con questi cereali un pane lievitato non riusciamo a farlo. Sappiamo che ci sono persone che sviluppano nei confronti del glutine una intolleranza permanente, sono i celiaci. Il loro numero negli ultimi anni è aumentato. Come mai, viene da chiedersi? Gli esami oggi a disposizione permettono di formulare diagnosi più precise rispetto al passato. Il glutine è cambiato da miscela proteica innocua, è diventato una miscela proteica potenzialmente a rischio per alcuni. Siamo cambiati noi, nel senso che l'evoluzione ci ha reso più sensibili nei confronti del glutine. Professor Pogna, prima di passare la parola voglio salutare il professor Catassi, che è in linea con noi, professore di pediatria presso l'Università Politecnica delle Marche e condirettore del Centro della Ricerca sulla Celiachia di Baltimora, negli Stati Uniti. Professor Catassi, buongiorno. Buongiorno a lei, saluto l'amico Norberto Pogna e tutti i radioascoltatori. Professor Pogna, torniamo al nostro glutine. È cambiato rispetto al passato? Forse dovrei chiederle, dato che il glutine è una componente di alcuni cereali, del frumento in particolare, non ci sono più i grani di una volta, un po' come le mezze stagioni? In qualche modo sì, le cose stanno così. Il pane veniva prodotto, è stato prodotto per moltissimo tempo in un modo artigianale. In casa si faceva il pane e ogni massaio sapeva trattare la sua farina come meglio questa doveva essere trattata. Con la panificazione industriale tutto questo non è più possibile. Occorre fornire all'industria che produce pane una farina con delle proprietà sufficientemente costanti e adatte anche alla meccanizzazione di tutto il processo di panificazione. Questo ha portato a sviluppare delle varietà adatte alla trasformazione industriale, che intendiamoci è anche quella del piccolo fornaio, che ormai non ha più l'aiutante che si sveglia di notte, no, per preparare gli impasti, ma si affida anche questo a macchine e a prodotti che gli vengono forniti con certe caratteristiche, farine con certe caratteristiche. Nel tempo dunque si è lavorato per adattare le varietà di frumento, sia quello per il pane che per quello per la pasta, all'industria di trasformazione. Questo ha fatto scomparire dal nostro panorama cerealicolo molte antiche varietà e ne sono comparse delle altre che hanno un glutine adatto a questa trasformazione. Sembrerebbe che insieme a questo passaggio di miglioramento genetico per la tecnologia, per la trasformazione tecnologica, si sia sviluppata anche una certa tossicità di queste farine. Tossicità che, come vedremo, è legata proprio alla digeribilità sostanzialmente del glutine che abbiamo nelle varietà più utilizzate attualmente nel mondo occidentale. I celiaci, professore, sono in aumento. Lei, come medico che da anni studia la celiachia, come legge questo dato? Il glutine non è più quello di una volta, come ci ha spiegato il professore, la tecnologia di cui si avvale la lavorazione industriale ha un po' complicato le cose, ma per alcuni questo non fa differenza, mentre per altri la fa. E come? Perché, professore? Sì, intanto come studioso della celiachia prendo atto di questo dato, che è certamente un dato estremamente importante. Guardi, ci sono studi che ormai dimostrano che l'aumento di celiachia è stato in alcuni paesi come gli Stati Uniti o come la Finlandia e verosimilmente altri paesi europei di ben 5 volte nell'arco di pochi decenni. Quindi il fenomeno è reale, è concreto e merita tutta l'attenzione. E evidentemente non può essere un fenomeno legato a problemi di cambiamenti genetici della popolazione, perché questi non intervengono in brevi periodi di tempo, quindi sì. Sono le motivazioni che stavamo discutendo prima con il professor Pogna. Dall'altro, per rispondere più precisamente alla sua domanda, devo dire che ovviamente la reattività al glutine poi dipende da un substrato genetico che alcuni hanno, altri non hanno, e questo fa la differenza nella risposta al glutine, che è comunque una risposta di tipo immunitario, quindi coinvolge un riconoscimento che è legato alle caratteristiche che alcuni soggetti hanno e altri non posseggono e quindi sono più protetti dallo sviluppo di questa patologia. Professore, ci sono persone a cui il glutine fa subito male e lo dimostra chiaramente con sintomi evidenti, diarrea, arresto della crescita, mi riferisco ai bambini. Ma il glutine può diventare nemico col passare degli anni e dare sintomi anche molto sfumati. Come mai, professore? C'è una sorta di predisposizione che viene slatentizzata da un evento, penso a una malattia, uno stress, o si diventa intolleranti perché il nostro intestino, dovendo gestire una quantità eccessiva di glutine, sopporta giorno dopo giorno, alla fine a un certo momento dice basta, adesso è troppo. Sì, è molto interessante la schematizzazione che lei ha fatto, perché devo dire che a tutt'oggi non è chiarissimo ancora per noi come questo accada, anche se è abbastanza chiaro che è possibile, come lei suggerisce, una slatentizzazione di questa predisposizione a carico causata, diciamo così, da altri fattori che possono essere uno stress di natura infettiva, possono essere lo sviluppo di altre patologie come può essere un tumore, può essere anche un evento di stress psicoemotivo, sì, che porta a un certo punto a slatentizzare una predisposizione. Ma è un dato di fatto, e su questo torno a dei dati concreti, che anche la persona che sia arrivata all'età di 50 anni, ad esempio, senza aver nessun segno di celiachia e neppure, diciamo, la positivizzazione dei test anticorpali, che sono quelli più fedeli per capire qual è la reattività dell'individuo al glutine, bene, è possibile che questa persona negli anni seguenti, tra i 50 e i 60 o tra i 60 e i 70, sviluppi la risposta immunitaria al glutine. Quindi è evidente che a un certo punto ci deve essere qualcosa che spiega questa modificazione, e questo qualcosa può benissimo essere in altri fattori ambientali. Ad esempio, noi abbiamo le prove che certamente un'infezione intestinale può rappresentare un fattore di scatenamento di una celiachia che naturalmente era già in uno stato di latenza. Ad esempio, questo vale soprattutto per i bambini, l'infezione da rotavirus, che è il virus che più spesso causa diarrea nella stagione invernale, sì, può essere correlata allo sviluppo di celiachia, e quindi ad esempio la vaccinazione anti-rotavirus potrebbe avere un effetto protettivo entro certi limiti anche dallo sviluppo di una patologia correlata come la celiachia. Volevo leggervi un sms di Francesco, ci scrive da Varese al 349-238-6666. A me risulta che orzo e farro contengano glutine, infatti sono vietate ai celiaci, addirittura consigliano di non consumare caffè preparato in bar che preparano orzo nelle stesse macchine espresso. Professor Pogna. Sì, ecco, la questione sta in questi termini. Il glutine è quello che vi stavo descrivendo. Le proteine che formano il glutine si trovano sia nel frumento, sia nell'orzo, nella segale, in altri cereali. Sì. Ecco, però in questi altri cereali non riescono a formare il glutine, così come noi lo intendiamo, cioè quella massa che si sviluppa impastando. Sì. Quindi la differenza nella terminologia è una differenza che nasce da tecnicismo. Sostanzialmente quello che è tossico sono le proteine. Le proteine che formano il glutine sono soltanto nel grano, però ci sono proteine tossiche anche nell'orzo, anche se queste non sono in grado di formare quella massa che noi conosciamo come glutine nel grano. Dennis da Alessandria, benvenuto. Buongiorno a tutti e grazie per avermi dato un attimo di spazio. Io chiamo perché ho saputo da 6-7 mesi a questa parte, io ho una bambina di 3 anni e mezzo ed è celiaca, abbiamo scoperto che è celiaca dopo tante indagini, perché aveva degli scompensi e non riuscivamo a capire da cosa era dovuto. E per caso abbiamo fatto queste analisi per vedere se era intollerante al glutine ed è risultata intollerante al glutine questa bambina, no? Sì. Il problema, adesso io domande ne avrei da fare un milione, perché sì, da quello che si legge io mi sono un attimo spaventato, mi sono iscritto all'associazione celiaci, arrivano delle riviste a casa e guardando e leggendo quello che c'è scritto, insomma, mi sono un attimo spaventato, no? Mi sono spaventato perché vedevo sia delle foto ma anche delle relazioni che facevano i medici, insomma, la danno come malattia addirittura qualche volta invalidante. Sì, venga la domanda, Dennis, che così passiamo la parola al professor Catassi, che rimette un po' la questione nei termini corretti. Sì, quindi la domanda è questa: uno, se la celiachia può dare delle invalidazioni a livello mentale, quindi se può ridurre le capacità cognitive della bambina da questo lato qua, e due, se per caso c'è qualche, non so, una cura, una pastiglia che magari in futuro potrà arrivare nelle farmacie come cura, insomma. Professor Catassi. Sì. A volte leggiamo delle informazioni e ci spaventano. Abbiamo bisogno di un medico che faccia chiarezza. Sì. Sì. Io capisco tutte le giuste preoccupazioni del papà, però lo vorrei rassicurare. Sì, in maniera assoluta, perché una celiachia che venga diagnosticata precocemente, come nel caso di sua figlia 3 anni e mezzo, praticamente comporta l'avvio del trattamento con la dieta senza glutine immediata e praticamente la guarigione rispetto a tutti i problemi che la celiachia può comportare. Quindi nel modo più assoluto noi possiamo dire che una celiachia curata precocemente, come nel caso di Dennis, non comporta certamente nessun tipo di problematica né a breve né a lungo termine. Ora, alcuni problemi che possono rimanere sono intanto quelli legati al trattamento, perché è chiaro che fare una dieta senza glutine comporta un impegno psicoemotivo che naturalmente ha un impatto sulla vita della bambina. Ecco, diciamo che va metabolizzato, professor Catassi. Ecco, per usare... È tutt'altro che dire che la patologia celiaca ha un impegno a livello mentale, e nella maniera più totale noi possiamo dire che questo non accade. Non è peraltro quindi una patologia invalidante, è certamente una patologia che comporta un'attenzione particolare a questo aspetto dietetico, che quindi influenza la vita di tutti i giorni, ma da qui a dire che sia una patologia invalidante credo che il passo sia troppo lungo. Per quanto riguarda la pillola, è vero che si stanno facendo numerose ricerche per trovare soluzioni più semplici e alternative rispetto alla cura con dieta senza glutine. Per il momento sono però ricerche e non abbiamo ancora dati conclusivi. Io sono sicuro che nella lunga vita della figlia di Dennis certamente arriverà. Queste soluzioni arriveranno, ma non è per l'immediato. Professor Pogna, medici, nutrizionisti raccomandano sempre di variare la dieta. Questo accorgimento, lo sappiamo, si traduce in salute, ma dico io anche in gusto, no? Noi alterniamo spesso la varietà delle verdure, magari cambiamo anche il tipo di pesce che portiamo sulla tavola, le carni bianche le alterniamo con quelle rosse, sui cereali siamo un po' fermi, invece ci sono cereali antichi che andrebbero riscoperti. Sì, in realtà tutti i cereali sono antichi, no? Sì. Nel senso che un po' abbandonati, volevo dire io. Sì, sono abbandonati. Esistono dei cereali che sono stati abbandonati, che negli ultimi tempi però sono stati riscoperti. Parlo ad esempio dell'orzo, parlo ad esempio dell'avena, che come sappiamo era utilizzata soprattutto nell'alimentazione zootecnica, per i cavalli ad esempio. Parlo ad esempio di grano, un grano antichissimo, quello che ha dato inizio alla nostra cereralicoltura in tutto il bacino del Mediterraneo, che è il grano monococco. Con questo grano si alimentavano anche le popolazioni della Val Venosta nell'età del bronzo, parliamo di 5.800 anni fa, e infatti hanno trovato le farine di monococco dentro l'intestino della mummia del Similao. Forse gli ascoltatori ricordano quella mummia umida trovata nei ghiacciai dell'alta Val Venosta e che risale, questo antico uomo risale appunto all'età del bronzo. Bene, nel suo intestino hanno trovato le farine di farro. All'epoca il pane si faceva con la farina di questo monococco, il pane all'epoca si faceva in questo modo. Ora, noi stiamo lavorando per riportare alle nostre alimentazioni questi cereali, troviamo sempre più spesso nei supermercati dei prodotti, ad esempio delle paste che contengono beta-glucani che abbiamo preso dall'orzo ad esempio, oppure troviamo nell'alimentazione entrata soprattutto nella popolazione anglosassone l'uso dell'avena, è assai diffuso. Ecco, vorremmo anche adesso vedere questo nuovo cereale, ma altri ce ne sono, ad esempio c'è il teff che è estremamente interessante. Questi sono sicuramente antichi cereali dimenticati, ma poi ci sono anche dei cereali davvero nuovi, cioè quelli costruiti sostanzialmente dall'uomo. Parlo ad esempio del tritordium, è un matrimonio abbastanza singolare tra il grano e l'orzo. Ormai sta entrando in coltivazione anche questo, e mette assieme le proprietà positive del grano, cioè il fatto che ha un glutine, con le proprietà positive dell'orzo, cioè il fatto che contiene delle sostanze come i beta-glucani che aiutano a prevenire i tumori intestinali, a tenere basso il colesterolo e via discorrendo. La questione è che nel mondo, sì, fino a poco tempo fa si viveva fino all'età di 40 anni, per cui tante malattie degenerative legate all'anzianità non c'erano, erano, sì, poco rappresentate. Adesso invece la speranza di vita è intorno ai 70-80 anni, e allora, come si dice, non mettiamo limiti alla divina provvidenza. Non mettiamo limiti, però aiutiamola, nel senso che nella nostra alimentazione possiamo introdurre delle molecole che ci aiutano a invecchiare, nel senso che ci aiutano a rimanere in buona salute anche a età avanzata, e i cereali, poiché sono la base di tutta la nostra alimentazione, ci possono aiutare moltissimo. Assolutamente. Proprio perché contengono delle sostanze che, se vengono valorizzate, se ci si stacca insomma un po' da questo legame troppo stretto con il grano tenero, il grano duro, ma si introducono anche questi nuovi prodotti nella nostra alimentazione, la nostra dieta ne guadagnerà in due modi: primo perché introdurrà queste molecole positive, ma poi anche perché abbasserà l'esposizione della popolazione generale alle proteine del glutine, che, come abbiamo visto, per una parte della popolazione sempre più crescente, costituisce un serial killer, cioè di fatto un danno. Professor Pogna, grazie. Allora andremo, dopo i suoi consigli, alla riscoperta dei cereali, e le faremo sapere. Grazie, grazie, buona giornata. È stato un piacere. Professore, noi abbiamo, anche con l'intervento del professor Pogna, raccolto parecchie informazioni su questa miscela di proteine che in alcuni soggetti genera un'intolleranza permanente. Ma ho letto un suo intervento e lei l'ha definito un po' una malattia camaleontica, no? Proprio perché non si trasforma, a volte non si presenta in modo molto così chiaro ed evidente. Ci sono dei sintomi sospetti che dovrebbero farci così pensare ad una intolleranza al glutine, professore? Certamente sì, per quanto, come lei giustamente ha sottolineato, la variabilità di presentazione di questa patologia sia veramente molto notevole, ma direi che in primo luogo, ad esempio, persone che abbiano disturbi intestinali cronici devono prima o poi sottoporsi al test per la celiachia. E parlo non solo di diarrea, che è notoriamente la manifestazione più caratteristica della celiachia, ma anche del suo contrario, cioè di una stitichezza cronica che paradossalmente può essere espressione e causata da una celiachia, oppure situazioni di dolore addominale ricorrente, di meteorismo, di flatulenze. Quindi la persona con disturbi intestinali cronici deve prima o poi fare un test per la celiachia. Un'altra situazione molto comune come campanello d'allarme di una celiachia è la presenza di anemia. Sì. E quanto è frequente questo disturbo? Pensiamo alla carenza di ferro, che soprattutto nelle donne in età fertile è particolarmente comune. Quando questa anemia non risponde alla cura con ferro dato per bocca, che è la modalità migliore per curare l'anemia, c'è da sospettare fortemente una celiachia, perché evidentemente vi potrebbe essere un malassorbimento intestinale di ferro. E poi abbiamo tante altre presentazioni, ad esempio una disfunzione del fegato, l'aumento di quegli enzimi che noi chiamiamo transaminasi, che spesso fanno pensare al medico che il paziente beva alcolici in quantità eccessiva, in realtà invece magari la persona è astemia e il problema è quello di una celiachia misconosciuta. Problemi di stanchezza cronica: non sempre chi ha la stanchezza cronica ha un disturbo di tipo psicosomatico, no? Come spesso viene suggerito. Una stanchezza cronica può essere espressione di una celiachia non caratteristica. Quindi, come vede, io ho citato solo alcune delle presentazioni possibili, ma certamente il ventaglio di presentazioni è molto ampio e quindi il medico deve avere un'attenzione particolare al problema della celiachia. Essere e benessere. Eccoci, siamo tornati. Glutine, amico o nemico? Ne stiamo parlando con il professor Catassi. Professore, da quello che noi stiamo dicendo, alcuni ascoltatori, e verrebbe giustamente da pensare, ma dato che questo glutine improvvisamente ad alcune persone può, no, diventare dannoso, può far male, io faccio prima, lo elimino, seguo una dieta senza glutine, cosa che stanno facendo, no? È diventata un po' una moda in America, e quindi, no, non mi metto nella condizione di essere poi a rischio. Le sembra una bella idea? No, direi di no, perché i prodotti che contengono glutine fanno parte della nostra tradizione alimentare e sono prodotti gustosi, sono prodotti che hanno moltissime qualità, quindi non dobbiamo escluderli to cure o sulla base di un sospetto che non venga poi avvalorato da una diagnosi. Sì. Anche perché poi seguire una diagnosi, una dieta senza glutine, se parliamo della celiachia, significa seguirla in maniera estremamente rigorosa e quindi con un'attenzione particolare a escludere anche le tracce di glutine, il che comporta un certo sacrificio giornaliero che la persona deve fare a fronte di una diagnosi, quindi, che è stata avvalorata da tutti gli esami. Quindi il gioco non vale la candela, professore. Direi possiamo proprio di no. Resterei a Milano, c'è Andrea, poi Giovanni dalla provincia di Cremona e poi abbiamo anche Pina da Milano. Direi una batteria di domande rapide. Andrea, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno sui ospiti. In parte avete già risposto alle domande che volevo fare per quanto riguarda se la manifestazione è sempre così palese. Sì. In secondo luogo, soprattutto nei bambini, io avendo due figli, dico un consiglio pratico per rendersi conto laddove magari si è intolleranti al glutine, come si fa per esempio, cioè i sintomi della... I sintomi nei bambini sono più chiari, vero professor Catassi? Direi di sì, però anche nei bambini vale un po' l'assunto generale, cioè visto che nella vita del bambino spesso accade che almeno una volta, non so, in età scolare o in particolari momenti si facciano esami di sangue per vari e svariati motivi, bene, quello è il momento magari di fare un controllo per la celiachia, anche se la sintomatologia non è caratteristica, perché ripeto, se si aspetta che la celiachia si manifesti in maniera tipica si perdono molti casi, quindi alla prima opportunità inserire tra gli esami che uno fa per controllo, per un check-up di salute, diciamo così, la richiesta dei marcatori di celiachia che sono estremamente accurati. Parlo soprattutto di anticorpi antitransglutaminasi e anticorpi antiendomisio, sono termini un po' ostici, ma certamente il medico li conosce. Possiamo quindi affidarci. Io sì. Prima di dare la parola a Giovanni, della provincia di Cremona, vorrei introdurre, vorrei raccontare quello che la comunità scientifica ci dice, e cioè c'è un'altra entità clinica, si chiama sensibilità al glutine. Così viene identificata dai ricercatori che in uno studio pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica dimostrano per la prima volta le caratteristiche di questa malattia. Lo studio è stato realizzato da un italiano, il professor Fasano, che è professore di pediatria, noto già per le sue scoperte nel campo della biologia delle mucose. Da diversi anni lavora all'Università del Maryland e ha collaborato a questo studio l'Università di Napoli, dove sono stati reclutati i pazienti che hanno preso proprio parte all'indagine. La prima firma dell'articolo è la dottoressa Anna Sapone, gastroenterologa alla Seconda Università di Napoli, che è in linea con noi. Dottoressa Sapone, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dottoressa, c'è un'altra malattia, non è la celiachia, ma è una sensibilità al glutine. Insomma, il glutine sembra entrarci in qualche modo. Che cos'è? Sì. Come l'avete scoperta? Noi l'abbiamo identificata proprio in ambulatorio, insomma circa 5 anni fa, mi ricordo anche la data, figuratevi, era l'8 aprile del 2006, sì. Quando nell'ambulatorio dedicato proprio alla malattia celiaca si sono presentate una serie di pazienti che erano convinti di avere questo problema. Sì. Però noi, riguardando i risultati delle analisi che avevamo richiesto, l'esame istologico e tutta un'altra serie di cose che normalmente vengono richiesti per fare appunto diagnosi di questo problema, non ci trovavamo, non riscontravamo appunto concordanza. Allora lì è nata l'idea che magari, insomma, non è solo celiachia quello che vediamo spesso e volentieri, che i pazienti stesso riferiscono come sintomi correlati a quel tipo di problema, e da quel momento è nata appunto l'idea di studiare questa cosa. E quindi il lavoro che è stato pubblicato, quello che appunto lei ha nominato, anche seguito però che è stato seguito di un altro che è stato appunto precedentemente pubblicato, e che un po' introduceva il concetto di sensibilità al glutine, che non è appunto la vera e propria celiachia, tra virgolette. Cioè, i sintomi però quali sono, dottoressa Sapone? I sintomi che sono più o meno quelli che manifesta un paziente celiaco. Quelli che ci ha ricordato il professor Catassi. Però gli esami dicono, gli esami non fanno diagnosi, insomma. No, gli esami non fanno diagnosi. In più, nei pazienti con la sensibilità al glutine possiamo riscontrare anche dolori articolari e muscolari, sempre non correlati ad alterazioni serologiche, quindi che ci fanno pensare ad altri tipi di malattie che potrebbero portare quel tipo di sintomo. E quindi noi appunto abbiamo dato, in questo lavoro che è stato pubblicato, abbiamo dato una definizione di sensibilità al glutine. Come pensiamo appunto che sia correlata un insieme di casi di reazione appunto al glutine, che però non prevedono né una reattività immunitaria, quella che appunto classicamente caratterizza la celiachia, con l'aumento degli anticorpi antiendomisi e antitransglutaminasi, sì. E nemmeno però una reattività di tipo allergico. Adesso è arrivato il momento di sentire Giovanni da Cremona, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Io volevo chiedere questo: mia moglie è celiaca. Sì. E abbiamo dei bambini, sì. E abbiamo fatto la predisposizione genetica dei bambini per la celiachia, sì. e l'esame è uscito negativo. Sì. Poi si deve ripetere nel corso degli anni o fa fede questo per sempre, se grazie genericamente... Giovanni, per la domanda. Professor Catassi, ma veramente questo glutine, insomma, è un po' un rebus, come si dice? Sì, è un rebus che ci sta affascinando veramente in questi ultimi anni, anche alla luce di quello che diceva la dottoressa Sapone. di novità in campo di nuovi quadri clinici che si associano a questo nutriente antico come lo è la storia dell'agricoltura, come ci ricordava il professor Pogna. Per rispondere alla domanda dell'ascoltatore vorrei dire che noi abbiamo a disposizione oggi questi test genetici molto utili proprio per escludere la patologia celiaca, e cioè quando il test che noi chiamiamo HLA-DQ2, ma questa è solo una sigla che ha... Che ve la ricordate voi, sì. Esatto. Quando risulta negativo noi possiamo dire che questa persona, questo bambino, questo adulto che sia, non svilupperà mai anche in futuro la celiachia. Quindi possiamo dire a Giovanni di stare tranquillo, i figli che sono negativi al test genetico non si fa più l'esame, non deve ripetere l'esame. Ma dottoressa Sapone, per queste persone che sono mostrano una sensibilità al glutine, voi suggerite quindi una dieta senza glutine per tutta la vita? Veramente ce la chiedono loro. Anzi, si mettono autonomamente a dieta senza glutine, perché appunto è quella che li fa stare veramente bene. Loro migliorano tantissimo solo dopo che hanno incominciato a fare una dieta con prodotti privi di glutine. Quindi insomma ci aiutano, mi hanno aiutato tantissimo i pazienti stessi, sinceramente. Però, anzi, io li devo ringraziare. Ecco, meno male, un medico che ringrazia i suoi pazienti, questo mi piace. Molti dei sintomi che abbiamo descritto sono comuni a quelli delle malattie infiammatorie croniche intestinali. In linea con noi abbiamo il dottor Sandro Ardizzone, che è responsabile dell'unità dipartimentale malattie infiammatorie croniche dell'intestino, un polo d'eccellenza inaugurato di recente all'ospedale Sacco di Milano. Dottor Ardizzone, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno anche ai colleghi e radioascoltatori. Dottore, esiste una relazione tra celiachia e malattie infiammatorie croniche intestinali? Siamo tutte nella zona intestino, verrebbe da dire di Beh, sì. Ma... verrebbe ecco. da dire di sì, nel senso che si tratta comunque di patologie infiammatorie che in qualche maniera riconoscono un disordine un po' immunitario. Certamente tra le due patologie così d'amblè non c'è alcuna relazione, anche se non infrequentemente ci capita di vedere pazienti che contemporaneamente hanno sia la malattia di Crohn che la malattia celiaca. È chiaro che a diagnosi non ancora fatta, se un paziente arriva e riferisce una diarrea, un dolore addominale, una perdita di peso, è evidente che nella diagnosi differenziale rientra non soltanto la malattia celiaca, ma anche altre patologie infiammatorie dell'intestino, tra queste la malattia di Crohn. Va ricordato per esempio che alcuni di questi pazienti, soprattutto se adulti, per lungo tempo, prima ancora di venersi, come dire, riconosciuti quali portatori appunto di malattia celiaca, spesso subiscono varie ospedalizzazioni, vengono confusi come portatori di sindrome dell'intestino irritabile, qualcuno è andato anche incontro a chirurgia, quindi è importante saper fare una diagnosi differenziale di fronte a sintomi così a specifici e talvolta anche insidiosi. Dottore, ci sono delle nuove tecniche di indagine per monitorare la salute dell'intestino, il nostro secondo cervello così lungo e in una posizione un po' così scomoda, mi lasci dire, no? Soprattutto per chi deve tenerlo sotto controllo con esami ripetuti, una bella seccatura. Che cosa c'è oggi a disposizione efficace ma poco invasivo? L'endoscopia ha fatto davvero dei progressi enormi in questo campo. Per esempio, da alcuni anni noi disponiamo di una piccola telecamera, appunto la videocapsula, che consiste proprio nell'ingestione di una capsulina all'interno della quale vi è una telecamera che attraverso poi il suo passaggio lungo il canale alimentare è in grado di filmare tutto ciò che vede, e questo ci è utile soprattutto per quella parte di intestino che si trova appunto tra lo stomaco e il colon, quindi il piccolo intestino. Grazie dottor Ardizzone. Essere e benessere. Eccoci qua, come promesso di nuovo insieme, baciati dal sole e dall'acqua. In estate non è solo un modo di dire, ma una meravigliosa e concreta sensazione che scriviamo sulla nostra pelle, un vestito che ci copre dalla testa ai piedi, ma che durante l'anno dimentichiamo di avere perché depositiamo sotto strati di vestiti. E così ci dimentichiamo di possedere uno dei cinque sensi di cui siamo dotati, il tatto. fatto. Oggi proveremo a riscoprire le potenzialità di questo senso in compagnia della professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e direttore del Centro di Ginecologia Medica dell'Ospedale San Raffaele Resnati di Milano. Professoressa, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Adesso io la trasformo in questi nostri appuntamenti in sensuologa, possiamo dire così. Faremo infatti con lei un viaggio alla riscoperta dei cinque sensi per in qualche modo riappropriarci, riscoprire le potenzialità di questi sensi per un'affettività e un benessere migliore. Inizierei proprio dal tatto, che mi sembra il senso che trascuriamo di più, o sbaglio? Oggi dedichiamo al tatto poca attenzione, cioè poca attenzione costruttiva, vorrei dire. Basti pensare questo, che la pelle è l'organo del nostro corpo che ha la massima rappresentazione cerebrale. Cosa vuol dire? Che ha un'innervazione finissima e questo consente alla pelle di trasmettere al nostro cervello e quindi anche alla nostra identità profonda una miriade di informazioni. Noi attraverso la pelle possiamo comunicare le cose più straordinarie, positive o negative, e possiamo addirittura aiutare un bambino a crescere meglio. Di più. Per esempio, pochi sanno rispondere a questa domanda: come si può provare da un punto di vista radiologico che un bambino è poco amato? Cresce poco. Per cui, che cosa vuol dire questo? Che quando i bambini sono trascurati anche dal punto di vista proprio dell'affetto, del contatto fisico naturalmente sano e trasparente, della tenerezza, dell'abbraccio, questi bambini vengono deprivati di una linfa fondamentale per la loro crescita, non solo psichica, ma addirittura fisica. Questo per dire quante profonde siano le risonanze che il tatto, il contatto di pelle, l'abbraccio, il contatto affettuoso può avere sul nostro benessere in una maniera così evidente da influenzare perfino la crescita del bambino. Quindi un bambino coccolato, accarezzato, oggetto delle nostre attenzioni e del nostro amore, cresce meglio. Cresce meglio, addirittura, guardi, è stato pubblicato in Inghilterra uno studio che ha dimostrato che i bambini di età inferiore ai 3 anni che stiano al nido troppe ore al giorno e che abbiano poco contatto con la madre hanno un minore efficacia del sistema immunitario e si ammalano molto di più. Quindi un altro indicatore ancora che ci dice che oggi purtroppo nelle società occidentali, per ragioni che tutti conosciamo, abbiamo una separazione troppo precoce del bambino dalla madre e questo lo priva di quel contatto proprio di pelle che serve non solo al suo benessere psichico ma anche al suo benessere fisico. Dal punto di vista del benessere psichico poi ricordiamo che un bambino che abbia questo contatto affettuoso, sempre sottolineando e trasparente, matura quella che è la fiducia in sé, nel proprio valore e nel meritare di essere amato. E questa fiducia è un talismano potentissimo che ci accompagna in tutta la vita e che ci dà la fiducia di superare anche le avversità peggiori che prima o dopo ci possono capitare. Quindi è veramente un nutrire l'aspetto profondo della voglia di vivere, della gioia di vivere e anche del coraggio di vivere. E questo è un aspetto che probabilmente dovremmo ripensare anche nel modo con cui gestiamo la nostra vita. Oggi le donne lavorano, è giusto che lavorino, però per esempio perché, ecco, dal punto di vista pratico, non riscoprire il marsupio quando si torna a casa in modo da tenere il bambino piccolissimo a contatto con la pelle mentre si svolgono i lavori. Si faranno più lentamente, però c'è questa possibilità qualitativa importantissima di avere il bambino che sente la nostra pelle, il nostro contatto, il nostro calore, la nostra vicinanza, e anche riconsiderare il dormire insieme ai bambini piccoli, perché se la mamma è fuori 8 giorni al giorno più i trasporti, il tempo che poi resta a contatto col bambino diventa veramente troppo poco, soprattutto se il bambino dorme in un'altra stanza. Quindi la vita moderna ci porta a riconsiderare alcuni principi fondamentali delle regole dell'attaccamento affettivo che richiedono necessariamente un certo numero di ore di contatto tra madre e bambino. Quindi tatto e contatto. Lei ha parlato dei bambini. Noi abbiamo un po' perso l'abitudine, il piacere anche di accarezzare una persona anziana. Mi è venuto subito quando lei parlava questo pensiero. Siamo portati spesso a coccolare dei bambini, lei però ha sottolineato, no, che sicuramente il ritmo della vita di oggi distacca più precocemente il bambino dalla mamma. Ma stavo pensando ai nostri anziani. Ecco, si è più portati a dare naturalmente una carezza ad un bambino piuttosto che ad un anziano, ad un malato. E invece, se è vero che il tatto, inteso come contatto, è fonte di benessere, quanto bene potrebbe fare, no, una carezza, un abbraccio, un buffetto? Pratico, di nuovo, che in primis metto in pratica naturalmente la mia vita e vedo quanto sia importante per le persone anziane della mia famiglia, è quello quando si va a trovarli, non solo di salutarli o dare un abbraccio affettuoso, veloce, ma per esempio parlare tenendo la mano, e questo è importantissimo in particolare se si va a trovarli quando sono ammalati o se sono in ospedale. Il contatto con la mano è importantissimo perché rassicura. Se poi nel frattempo si fa anche una carezza gentile e si ha la gentilezza di guardare negli occhi mentre si parla, questo consente, un aspetto importantissimo, di dare all'anziano il senso di essere ascoltato, accolto e amato, anche se è rallentato per esempio nella comprensione. Quindi importantissimo l'abbraccio, importantissimo il contatto, la carezza, perché tutti abbiamo fame di carezze, oggi molto più di una volta. Lei pensi di fatto il successo che hanno oggi i centri estetici con i massaggi? Se ci pensiamo, è una carezza mercenaria, cioè noi paghiamo una persona bravissima, professionalissima, tuttavia perché ci faccia quello che ci manca di più, la carezza. È vero quello che lei dice, professoressa Graziottin. E a proposito di massaggi, siamo tutti attenti al nostro corpo, deve essere snello, tonico, ma forse abbiamo perso proprio anche noi il piacere di accarezzare il nostro corpo. Lei si riferiva al massaggio, ci rivolgiamo e sicuramente facciamo bene in centri specializzati dove c'è personale competente, ma massaggiarsi adesso siamo in estate, il dopo sole, dopo una giornata passata in spiaggia, anche questo è un modo di recuperare il tatto, di volerci bene. Invece siamo sempre un po' presi dalla fretta e quasi anche questo tradisce in fondo un'inibizione, una poca attenzione a noi stessi. Guardi, c'è anche un aspetto in linea con quello che lei sta dicendo che riguarda proprio la riduzione dell'aggressività e l'aumento del benessere. Per esempio, questo si può fare benissimo anche con i bambini, il massaggino ai piedi alla sera ha un ruolo importantissimo nel calmare, è un gioco, si può giocare con i 10 ditini, dargli un nome, e in questo massaggio al piede c'è un momento di intimità giocosa straordinario. Con gli adulti ugualmente, noi trascuriamo moltissimo i nostri piedi che invece sono tenuti giustamente in altissima considerazione dagli orientali. Attraverso il massaggio ai piedi noi diamo più segnali. Innanzitutto trattiamo con amore una parte del corpo abitualmente negletta. Poi mostriamo un'attenzione affettuosa, ma soprattutto trasmettiamo, quando lo facciamo con un po' di sentimento, non occorre essere dei grandi esperti, trasmettiamo delle sensazioni di benessere straordinario, perché di nuovo, come tutti sanno, nel piede ci sono tutti i centri di riferimento di tutti gli organi del corpo. Ecco che allora di nuovo noi possiamo riscoprire, proprio adesso che siamo in vacanza, che siamo più tranquilli, più rilassati, un modo di stare insieme che non sia ovvio, che non sia lo stare seduti sulla sdraio, ma magari si può stare seduti uno di fronte all'altro e intanto farsi il massaggino ai piedi. In questo modo si conversa, si ride, si sta insieme in una maniera che, avendo il contatto, abbassa nettamente l'aggressività. Per esempio, uno fa una battuta aggressiva, se però vuole bene, istintivamente tocca l'altro con la mano sul braccio, sulla spalla. Perché questo? Perché tra la parola e il contatto conta molto di più la qualità comunicativa del contatto, per cui anche la battuta aggressiva viene alleggerita, smorzata, bravissima, e diventa scherzosa o comunque più morbida se noi la accompagniamo da un contatto. Questo per dire che il segnale di pelle ha una priorità, potremmo dire, interpretativa e di lettura nel nostro cervello rispetto ad altri segnali più evoluti e più recenti nella scala evolutiva come la parola. Quindi è giusto riscoprire la bellezza del tatto e di quanto bene possiamo regalare con un uso attento, accorto e affettuoso di questo senso straordinario. Professoressa Graziottin, vale anche il solletico? Da bambini ce lo si faceva reciprocamente il solletico, anche questo era un modo di utilizzare questo senso. Che poi... Ma il solletico è una forma particolare di tatto che può andare addirittura a virare verso il dolore, quindi ha una peculiarità molto particolare perché va dal piacere al dolore, a seconda della sede, dell'intento, della relazione che lega le due persone, dell'aggressività o meno con cui viene fatto e anche delle caratteristiche della zona in cui viene applicato. Per esempio, se è una zona già irritata, il solletico può diventare francamente doloroso. Se invece viene fatto con garbo, con scherzo, eccetera, ne vediamo i bambini che quando gli si fa il solletico no, quasi si dice vanno via col fiato, nel senso che ridono fino a perdere il respiro, naturalmente temporaneamente. No, certo. Modo di nuovo giocoso caso simpatico. L'importante è che il bambino non dia segni di spavento, perché invece, appunto, proprio per questa caratteristica che ha il solletico di poter virare su tutta la gamma percettiva, se diventa doloroso o comunque foriero di paura, può dar luogo a incubi. Quindi attenzione di essere sempre misurati anche in questo gioco così affettuoso. Allora, questo potrebbe essere l'invito per questa settimana: riscoprire il tatto, rivivere la nostra sensualità riscrivendola proprio a partire dalle nostre potenzialità tattili. Grazie alla professoressa Graziottini, alla prossima settimana, professoressa con un altro senso. Grazie per essere stata con noi, ci sentiamo la prossima settimana. Grazie a voi. E grazie anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento è per domani, dopo il GR delle 11.